on Broadway, la via del teatro che si apre in anticipo nello spazio immediato dopo il GR di Radio Popolare, tornando in diretta con il Breakfast Club. Allora, come ben sapete, dalla prossima settimana si avvicina una data che ho particolarmente a cuore, ci tengo, il 2 novembre, commemorazione dei defunti, il deposito delle memorie della Certosa, non solo con Certosa Estate, già abbiamo parlato della serie di appuntamenti, uno in particolare curato dal nostro Alessandro Tampieri. Per quanto riguarda, come ho detto, l'avvicinamento di questa data, sarà domani alle ore 14, cioè sabato 28 ottobre, per un'ultima camminata artistica in Certosa, cose dell'altro mondo. Beh, intanto Alessandro Mattiniero, anzi Super Mattiniero, è qua in diretta telefonica con noi, al quale do il buongiorno. Bentornato, buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie a te per la levataccia, ma come sai nel cuore ho il deposito delle memorie della Certosa e non solo, anche gli appuntamenti per quanto riguarda questi motivi di crescita culturale e di conoscenza, oltre che di incontro. Allora, l'ultimo appuntamento per quanto riguarda cose dall'altro mondo? Sì, sì, che in realtà doveva finire in settembre all'interno del calendario estivo, ma abbiamo deciso di aggiungere un paio di date autunnali. Ahimè, mi tocca usare questa parola, sì, che so che non è gradita a nessuno dei due. Infatti non è nelle nostre corde. Però, esatto, però insomma, allora, è nel ciclo delle stagioni. Certo. Dopo i concerti jazz, quando il concerto ha creato entusiasmo, si chiede bis, e quindi è questo caso, no? E lo facciamo in autunno. Esatto. Abbiamo deciso di aggiungere altre due camminate, non più in serale, quindi al di fuori degli orari di apertura del cimitero, ma diurni, che comunque ci danno l'opportunità di esplorare la Certosa alla luce del sole, che ha tutto un altro fascino ma mantiene inalterato il potenziale di suggestioni. E quindi domani abbiamo proposto l'ultimo appuntamento alle ore 14, che è, come dire, apre anche la settimana di appuntamenti per il 2 novembre, quindi avrà un significato e un peso, certo, particolare. Certo, infatti ci tenevo in particolar modo. Allora, parliamo dei contenuti, Alessandro. Allora, la camminata artistica, che molti ci chiedono esattamente che cosa si intende per camminata artistica, non è una visita guidata, perché quello lo facciamo fare alle guide che lo fanno di mestiere, ma non è neanche uno spettacolo e tantomeno un laboratorio. È un'esperienza che noi facciamo insieme ai partecipanti, che insieme alla Certosa diventano i veri protagonisti di questo percorso, che potremmo dire che è un percorso umano, poetico, in cui ogni persona si relaziona con la Certosa in base a certi strumenti di osservazione e di riflessione che noi proponiamo, anche grazie alla collaborazione con il Patto per la Lettura e la Libreria Trame, che ci offrono degli spunti e delle riflessioni letterarie a tema. Io so che il tema dei libri anche questo ti è molto caro, per cui insomma sono tutte porte che aprono a riflessioni. Domani nello specifico, non potendo fare essendo a cimitero aperto, quindi anche con i visitatori che hanno bisogno del massimo rispetto, sono giornate cruciali per il culto e l'omaggio ai nostri defunti. Lavoreremo sul silenzio innanzitutto, come tema importante, bello, e filo conduttore di tutta la camminata, ma anche sul tema del risveglio in tanti sensi, cioè risvegliare l'attenzione, l'ascolto, la memoria, la percezione, e quindi saremo presenti camminate silenziose che dialogheranno con tutto quello che capita all'altro mondo. Certo, ricordiamo anche che questa devozione, che ognuno vive in un'intimità a modo suo, e oltretutto è qualcosa che va a crescere noi stessi. Si dice: vai a trovare i tuoi defunti, perché si va per noi stessi prima di tutto. Poi certo, chiaramente è qualcosa che porta la devozione, l'attenzione, ma come dice Alessandro e condivido perfettamente, è un dialogo costante all'interno dei depositi della memoria. Vi sono come docenti che comunicano con noi in sale di atenei speciali, che sono amplificatori di cultura, di letteratura, di arte, di anche di ecologia, perché in questi spazi vi è un'attenzione, un rispetto, una curatela per il verde che è molto, che insegna in ogni spazio e in ogni momento. Quindi certo, non cadiamo nello stereotipo "ah sì, devo andare". No, è per noi che facciamo questa cosa, insieme al rispetto e all'omaggio per quello che è l'attenzione per i nostri defunti, insomma il ricordo, l'emozione e la grande sensazione, oltre che la microsensazione. Dopo questa apologia del 2 novembre che ho fatto, che è una data la quale, una delle poche date autunnali che insomma ho nel cuore, lo dico a bassa voce, pare che sia una bella giornata domani, una bella giornata d'autunno. Ma speriamo. Esattamente. Scusa, ho fatto la mia omelia da padre Guglielmo, ti ridò la parola adesso per alcune indicazioni logistiche, Alessandro. Sì, allora l'appuntamento è dalle 14, dura un paio d'ore circa, per prenotare si può mandare una mail a progetto.metro0@gmail.com oppure chiamare il 338 930 0148. La camminata ha un costo di 12 euro che comprende già i 2 euro che come ogni anno vengono devoluti alla valorizzazione della parte monumentale del cimitero. E è un progetto metro zero che, come già ti dicevo nell'altra chiacchierata che abbiamo fatto, nasce per ridurre quel senso di distanza che c'è tra noi e gli altri, ma anche tra noi e le persone, quindi, e i luoghi. E quindi potremmo chiamarlo proprio un progetto partecipato di comunità. E con me ci sarà Giordani e Giuditta De Concini di Associazione Samati S e Associazione Giaia. Sì, anche questi sono i crediti. Cito anche, certo, ovviamente, oltre al Museo del Risorgimento a Roberto Martorelli, insomma tutto a Bologna Musei, insomma, che sono l'anima dei progetti in Certosa. Cito anche un'altra collaborazione importante che è Itaca, insomma, che propone un nuovo modo di vivere i luoghi, e sicuramente questo è un progetto che in Certosa offre uno spunto più interessante per quella che a noi piace chiamarla la città dei vivi, non la città dei morti, perché il cimitero è per chi resta, non per chi parte. E in effetti si riallaccia a quello che in precedenza è proprio una comunicazione che è per noi. Quindi non solo capisco la ricorrenza, la commemorazione, capisco ogni aspetto anche di incontro, e grazie a chi ha avuto queste idee per valorizzare, per dare la giusta e oltre importanza di questi magici luoghi, già illuminati di per sé, portano ulteriore luce, ma come vi ho detto è qualcosa che è da vivere appunto anche al di là di queste situazioni. Prendete un libro, andate a leggere in Certosa, fate una passeggiata, fermatevi davanti a un monumento, lasciate trasportare dalle epigrafi che trovate sui monumenti e sulle lapidi. È qualcosa di veramente unico e speciale. Abbiamo detto tutto, Alessandro? Direi che abbiamo detto tutto, se non che vi aspettiamo domani. Bene. Sarà persino una bella giornata, non ci sono scuse per non venire. Ok, io ti ringrazio tantissimo per l'anticipazione. E grazie a te. Mando questo brano di Sabrina Maleiros a proposito di emozioni, vibrassao, vibrazioni, ok? Buona giornata Alessandro, presto. Grazie anche ciao, a voi. Ciao, ciao. Ciao. Per Far Out Record Equilibria, quindi portiamo a termine questo brano e poi andremo con la curatela invece di Earth per ho voluto anche fortemente questo spettacolo di cui vi parlerò a breve dopo gli spot. Questa è la rubrica In Scena dei 103.1 all'interno del Breakfast Club. A tra poco. Vibração vai rolar noite.